speranza che tu mi ascolti, perché sto andando in condizioni precarie. Prima quando la fatta la portatina sull'apparato e andava con lo scala. Comunque, tutto con lo scala, via. Quindi non ha detto, non ti ha salutato. No, grazie mio ragazzo. Hai capito, da un pochino segnale a fondo scala. Con questo lago sta segnando 6.5 o 7, Dino. Però è un barchino di quelli anno 48 che in città prende un sacco di colpi, capito? Allora no, non va bene, ne dà tanti colpi, ma ne prende anche, allora no, non va bene, capito? Comunque l'importante è che funzioni tutto, vai, non c'è problema. E cappa, dai, sì, no, per questo diciamo non problem, ti ascolti, anche se diciamo c'è l'alto e basso, ti ascolti molto molto bene, dai. Quando c'è l'aiutino è un'altra cosa, però ti ripeto, non fate già la città, dai. È troppo triste, capito? Va bene. Le prendi tu Massimiliano, le prove già le fatte, sembra che vada tutto bene a te, dai, che cambio radio. Positivo, non c'è problema, cambia. Nino, io abbiamo sempre 5 watt, abbiamo solo attaccato un po' di eco qua, Ma che cazzo, dai, no, ti stavo chiedendo prima, io come ti chiamo, è riattaccato la piccola segretaria. Da parte mia è cambiata qualcosa o c'erano sempre Santiago 9? Allora, quando si è attaccato, io ti ho detto che fai da segnale 8 a segnale 9 attaccato. Quando si è staccato, la radio è sempre perfettamente 5 e però fai segnale da 4 a 5, capito? 4 a picchi di 5. Ah, esatto, dai, infatti ti voglio dire adesso sono di nuovo a 9 perché è staccato. Sì, adesso si è a 9, tranquillamente a 9. Io dicevo invece, Nino, io sono, ho girato una levettina, ho messo un pochino di eco sotto e non so se mi ti disturbo o cosa del genere. I watt sono sempre 5. No, diciamo, ecco sul canale 4, non dà nessun disturbo completamente, la modulazione si sente chiara e diciamo che coppia molto bene, dai. Positivo, c'è stato un break, facciamolo entrare, buonasera, 73, log della Sardegna, qua, modulante bulldozer massimo, avanti. Campo positivo, vai, da parte mia una buona serata, in questa stazione Pino Squalo, ok, la mia se mi ascolti, campo. Campo Pino Squalo, tutto Roger, segnale 57, radio 5, ci ascoltiamo bene, avanti ancora l'antenna per te, campo. Campo positivo, dai, tutto Roger. Mi trovo qua in provincia di Catanzaro, ok? Stavo facendo la scarrellatina. E ora sono di salutine, dai. Sì, positivo, dai, positivo, tutto Roger. E noi stiamo qua in questo bollino lì da Catania e un altro amicaccio qui dal nord sempre della Sardegna. E te lo mandiamo avanti, là. Niente, dai, lo spalliero che stava commutando con un'altra radio adesso. Nino è entrato lì da Catanzaro, un altro amicaccio, Pino Radio Squadra, avanti per te se lo ascolti. Diciamo che lo ascolto più io, ok? Non ho capito quello che ha detto. Lo faranno in pare, l'avete. Comunque se lui mi ascolta, lo cordializzo, ben entrato, ben sentito, anche se non... Hai la differenza che c'è. Vai, fammi tu da ponte. Claudio, avanti. Claudio, ero io, buonasera. No, ero io. Ben sentito, dai, quindi in ora di essere in... Tu, sembrava Claudio. Dai, molto. No, già sono qua, ma... Vabbè, se l'hai vista la differenza che c'è. Cappa, se l'ho vista, io ho voglia. Ce l'è anche per i punti, dai. Nino... anche un altro micaccio, Gigi Radio Vulcano, qua a un chilometro da me, dai, te lo mando avanti. Positivo, buonasera Nino, dai, buonasera a tutti gli ascoltoni dell'isola della Sicilia, anche in quella sarda. Buonasera Nino, sempre sperando che mi ascolti. Se parlate in due, io sento un'alternata, Dio Claudio, tu la senti? Ma che fortissima fece questa alternata, dici? Non so, c'è questa alternata, ho provato a cambiare il microfono e ricambiare, c'è sempre l'alternata, Claudio, non lo so. L'ho provato prima e c'era e non ho riuscito a toglierla, anche cambiando il microfono. Cambia apparato. E non lo adesso non lo cambio di apparato, sono entrato così solamente per salutare, dai. Sempre che sia riuscito ad ascoltarmi Nino, solamente per i saluti, che poi vi lascio, ho da fare una cosetta e... Sono entrato così e per salutarvi solo, dai. Calma, no, io ti ho ascoltato, ti ascolto molto bene. Segnale 9, Radio 7. Radio 7. 9, Radio 7. Tu a me. Aspetta, ma tu, di 140, vorrei, 640, via un po'. È positivo, Nino, mi arrivi bene anche tu, dai, mi arrivi bene abbastanza, una radio quasi di 5, dai, quasi di 5. Dai, io vi saluto cordialmente, dai, che sto chiedendo le trasmissioni, sono entrato così, ho acceso un attimo solo per i saluti e basta, dai. Vi lascio nel vostro QSO delle Isole Gemelle, dai, fatevi buon prosieguo, vai Massimiliano. Ciao dai, ciao Gigi Volca, ci sentiamo le prossime, che io fra un altro paio di passaggi e poi lascio a Mandono che facciamo direttino, dai. Avanti per te l'antenna, Nino, per i saluti a Gigi Vulcano. Attenzione Gigi Vulcano. È positivo, scusa un attimo Nino, chi è che chiama Gigi Vulcano? Buonasera Gigi Vulcano, Giorgio Rambo in Catanzaro, Gigi. Ciao Giorgio Ramo, buonasera, appena ascoltato Giorgio, mi hai preso all'ultimo che stavo chiudendo. Ciao Giorgio, ben ascoltato, qua sono nell'isola sarda, Giorgio. Cara, cara, positivo Gigi, ma così bene, dai, la propagazione stasera va bene, Gigi. Segnale qua di 8 nella mia ricevente, Gigi, Radio 5. Positivo Giorgio Rambo, dai, ti devo salutare, però ti lascio in compagnia di Bulldoze, di Massimo Bulldoze e di Claudio Spalviero, capito? Devo purtroppo chiudere Giorgio, un abbraccio, un salutone, dai, dalla bella isola sarda qua, del nord Sardegna, Gigi Vulcano ti super saluta, ti lascio in compagnia di Bulldoze e Claudio Spalviero. Ciao Gigi Vulcano, buona serata. Giorgio Rambo, buonasera, i salutoni cordiali, 73 cordiali, dai, buonasera, benissimo ascoltato qua, in nord Sardegna, provincia di Sassari, Cappa. Caro Giorgio, positivo, dai, nord Sardegna, segnale 35, oscillante, radio 5, massimo, rilasciamo l'antenna, lo Spalviero, avanti Spalviero, se mi stai copiando. Ciao Giorgio Rambo, buonasera, ben ascoltato, ciao anche Gigi Vulcano, con la speranza che tu mi ascolti qua dall'isola sarda, cambio. Ah, ma positivo di come una tesma, Piero 5-6 oscillante a Radio 5, dai, ancora la propagazione sta tenendo. Tutto Roger, rilasciamo per Massimo Radio Bulldozer. Sì, dai, anche io, Giorgio, anche io fra un po' faccio un attimino di bianco, facciamo, portiamo un po' la mogliettina, la pupina a fare un giretto, capito? Visto, ne approfittiamo che ci abbiamo ancora un po' di sole qua in Sardegna, capito, Giorgio? Oggi è positivo, Massimo Bulldozer, dai, fai pure, fai tutto quello che devi fare, ci si nasconde le prossime. Giorgio Rambo qua finalizza, ciao Massimo, ciao Spalviero, buona serata con tutto quello che fate e ci si riascolta. Giorgio Rambo vi saluta, cambio. Capa Giorgio, dai, buona serata, buona continuazione, buon tabacco per domani e ce la riascoltiamo, dai, Bulldozer che ti ha salutato. Ciao Nino, anche a te, dai, un abbraccio, una stretta di palestra, ce la riascoltiamo le prossime. Claudio, anche per te, io chiudo che devo andare, dai. Ci sentiamo, salutoni a tutti, Bulldozer chiude, trasmissione, gambi. Modulare con te, mi raccomando, ben senso e spero di sentirci presto, dai. Da parole, dai, propagazione permettendo, tutto a posto, anche a me mi ha fatto piacere questo piccolo questo, dai, ci sentiamo alle prossime, di nuovo salutoni belli e ce la riascoltiamo. Ciao Claudio, ci sentiamo alle prossime anche per te, gatto, gatto. Un saluto e un abbraccio, dai, anche per te da parte mia, ricambio il tutto come ho ricambiato per l'amico, spero di sentirci presto anche da parte tua, ti auguro un buon inizio settimana e mi raccomando, spero che, diciamo, via radio quando la prossima volta mi collego, spero di sentirvi di nuovo a tutti quanti perché per me è stata una cosa tutta bella, dai. D'accordo Nino, grazie anche a te famiglia, dai, ci riascoltiamo alle prossime, stammi bene, ciao. Dai, comunque era rimasto l'ultimo, mi sembra era rimasto l'altro amico che ora sto staccando anch'io, che mi do una piccola rinfrescata, una lavata, dai. Vai avanti per l'altro amico così lanci i saluti anche per lui, dai. Thank you. ascolto, riesco a tu, dimmi. Thank you. suocera. Ti saluto, ti abbraccio, una buona serata con tutto quello che fai e ci risentiamo. Fausto, Corrado ti ha salutato. Ciao. Con il rubo. Quando la avrò risposto. ciao, ciao, Leo, allora siamo da Riustato. E anche se poi vedo, ho fatto un canno giro, e poi me la vado anche io. Ma buono, ciao, Leo, ti saluto, ti abbracci, se te prendi, mi ha fatto piacere. Questa sera mi ha